Chi vuole fare qualche domanda? Ha detto si chiama Nino. Nino. Chi vuole fare quindi qualche lei si è trasferito qui da poco? No, abito qui da tanto per quello. Ok, ma c'è qualcosa di particolare che le piace di questa città? Ma non è che sia una cosa, però si sta bene, dai. Io facevo, lavoravo un distributore, poi mi ha ingaggiato un signore qui che aveva una compagnia di guardie giurate, mi sono trasferito qua. Ciao, vi saluto. Grazie, arrivederci.